Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono in macchina che devo tornare a casa, ma sono fermo. La zanzara inizia tra 5 minuti. Aspetto 5 minuti, inizia la trasmissione, gas, via. Ma piantala Parenzo di fare il moralista da 4 soldi, chiudi la trasmissione, mi scelgo io gli interlocutori, ma con chi pensi di avere a che fare? Sei in quella trasmissione lì, gli interlocutori sono questi, non ti van bene, stai a casa e non prendi i soldi. Volando dalla California all'Arizona e questi stronzi mi hanno fatto togliere dalle cuffiette la zanzara per spiegarmi come cazzo si allaccia una cinta. Parenzo? Pronti? Allora, devo dirti una cosa. Chiudere tutto, no, già vale. Sentito, già, no, parte già male qua con quei messaggini vocali che ti piace. Chiudere ma tutto. Ma perché parte chiudere male? Chiudere tutto, perché? Chiudere tutto. Inizia chiudere la settimana, tutto. Bisogna essere carichi. Parte bisogna male, essere carichi. Amico mio, sta a marca male quello lì, sta a marca male, come dicono a Roma. Ma chi? Quello che ti ha detto, che ti ha criticato? Sì, vabbè, sì. Che sarà mai, si è abituato, chiudi. Dai, si è abituato. Ma pensi che bello, chiudere qua, pensa che meraviglia, no, ma 18 sei, e 36, ma perché sei chiudi fissato qua, chiudi con questa qua, cosa qua? Chiudi, non c'hai voglia di fare un cazzo, cioè non c'hai voglia di fare nulla. Niente, ragazzi. Sono in attesa di sapere chi sarà il prossimo presidente della Confindustria, mi arrovello ogni giorno. Guarda, ti assicuro, è uno di quegli argomenti di cui me ne sbatto totalmente i coglioni. No, ma non si può dire così. Ti posso assicurare che me ne fotto totalmente. È la proprietà. Me ne frego. Cosa devo dirti? Che me ne frego, come diceva male. La buonanima, no? So. Come diceva lui, me ne frego il nostro motto, diceva no, lui. No, io quello non lo dico, questo lo dici tu. Apriamo, va? Vai. Allora, devo dirti che c'è una cosa che per me è assolutamente una sorpresa. E appena l'ho letto ho pensato, ma no, davvero, non ci posso credere. È stato arrestato per furto uno dei nomadi feriti da Hermes Mattielli, te lo ricordi? Sì, ho visto, il rigattiere vicentino che fu condannato alla galera e al risarcimento, poi è morto di crepacuore, no? Ma lo sai che questa cosa qui dell'arresto di questo nomade, di questa roba, non me l'aspettavo? Cioè, pensavo che questo qua si fosse trovato magari un lavoro onesto. Pensavo che dopo le fucilate prese, le che erano, no? Fucile, non mi ricordo, sì, le fucilate. Beh, prese... è rimasto anche sì, segnato, sì, no? Sì, ma non mi sembra che sia rimasto segnato. Cioè, è tornato a fare, ha continuato a fare quello che ha sempre fatto. Cioè, il ladro. Ora, devo dire che è stata quasi una sorpresa. Ho detto, ma no, ma davvero? È stato arrestato dopo diversi anni, quasi 10, credo. Questo rom che ha portato Mattielli sostanzialmente alla rovina, perché Mattielli dopo ha dovuto subire un processo, la condanna, il risarcimento, sappiamo, è morto sappiamo. Di crepacuore. No, è inutile che dici sappiamo. No, sappiamo. Sappiamo, nel senso che sappiamo, è sì, vero. Ma è inutile che fai superficialmente, no, dici non c'è sappiamo, superficialità, sappiamo. Poi un'altra cosa da diventare pazzi, da Italia paese di merda, dovremmo ripristinare la sigla, ma adesso non c'è tempo per tutte queste siglette, tutte queste cose. Cioè, ho letto una cosa nel weekend che mi ha fatto rabbrividire, caro Parenzo. Ero in treno, ero un po' distratto, ero stanco. Certo, mi cade l'occhio sul titolo di un giornale, su due giornali in realtà. su 24.000 forestali in Sicilia, che già sono tantissimi questi forestali. Mm. Sono di più in proporzione, come sappiamo, del Canada e di altri paesi. Su 24.000 forestali ci sono 3.500 condannati in via definitiva. 3.500, alcuni addirittura piromani. Non è male. Piromani. Non è male. Cioè, alcuni condannati in via definitiva per addirittura associazione mafiosa, alcuni di questi. Altri per reati comuni, eccetera, eccetera. Altri sono piromani. Cioè, hanno bruciato, forse perché conveniva a questi signori bruciare, no? Bruciare le foreste, piromani. Eppure sono lì. Ogni tanto, siccome sono tutti precari, no? Vorrebbero diventare stabili, ovviamente, ma per fortuna ancora sono precari. Comunque il contratto viene rinnovato. Questi signori qua, alcuni di questi sono piromani, cioè hanno incendiato le foreste per i quali poi sono stati assunti, per la protezione delle quali sono stati assunti. Ragazzi, dai, su, ma non si può. Un'altra cosa su cui mi sono incazzato veramente a leggere è questa cosa di Bagnasco, il signor Bagnasco. Uno dice che ce l'ha contro la Chiesa, o uno dice che ce l'ha contro il Vaticano. Cioè, Bagnasco, cioè quello che dice che dobbiamo votare, come dobbiamo votare in Parlamento, a scrutinio segreto, a scrutinio, no? Sì, questa è un'ingerenza. Sì. Allora, prende come cappellano militare, perché è cappellano militare, ti rendi conto? Una pensione di oltre 4.000 euro al mese, a parte il fatto che paghiamo noi le pensioni dei preti, questo è abbastanza incredibile. Sì, questo, ma è stato generale di corpo d'armata. Vabbè, ma questo però perché No, mi fa impressione. Ammetti, ti rompe questo? Scusa, ma io voglio dirlo a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Vi pare normale a voi che Bagnasco prende 4, alcuni dicono addirittura 7, a parte che si faccia chiarezza su questo, 4 o 7 mila euro al mese in pensione come generale di corpo d'armata? Beh, se l'ha fatto però adesso. Ma non l'ha fatto, ha fatto solo 3 anni nell'esercito come cappellano militare, solo 3 anni. Poi aspettative, cose, impegni, eccetera. Ha fatto 3 anni come militare e si è congedato e prende la pensione come, divento pazzo, guarda, come generale di corpo d'armata, il signor Bagnasco, che poi ci viene a dire come votare in Parlamento. No, amico mio, no, non è possibile. Togliere questa pensione subito. Subito. Eh no. Quando è troppo, dai. Allora, fatemi ridere un po'. Crozza su Freccero, si preannuncia veramente storica questa imitazione. Molto bella. Crozza su Freccero. Molto bella, sentila, perché bisogna in realtà vederla. La radio non è che si. No, ma il testo era strepitoso. Il testo è bello, però in realtà vedere il. E lo so, ma questa è la radio, che vuoi il fare? Il ciuffo di Freccero, no? Il ciuffo. Non ci vorrebbe una radio interattiva, tu puoi anche guardare, puoi immaginare questo Freccero col ciuffetto imitato da Crozza. Carlo Freccero, ex direttore di Rai 2, attuale consigliere di amministrazione della Rai. Ma naturalmente, voglio dire una cosa forte. Voglio riportare Gino Bramieri in Rai. Con Cross. Ma certo, ma sì! Stupido! Sì! Alto e basta! Ma naturalmente non succedeva nulla. È delle visioni. Stupido, coglione, imbecille! Non è Sgarbi, Lo dice con un po' più di. No, non so. Sì, come diciamo, però un'inflessione anche proprio un'ettiana ogni tanto, quando lo metti. Lucci con Razzi, vai, Lucci con Razzi. Molto buono. Perché sei ancora contro Renzi, te? Scusa, io sono di Forza Italia. Che stai aspettando a far sarto da guaia? No, io finché che c'è Berlusconi, top. Che c'hai dentro la valigia? I soldi in Damasco? No, i soldi ci sta. Che medicine te prendi? Fammi vedere che malattie c'hai. I preservativi non ce l'hai? Preservativi io ho mai adoperato. Non scopi col preservativo? No, io faccio come amo, voglio, figurati. O tumori di qualcun altro ha rimediato in giro? No, mai. Io sono una persona seria. Io ho una proposta di legge dove al 90% sono tutti gli italiani che lo vorrebbero. Qual è? Quello della riapertura delle case chiuse. Dove porta? Appunto, dove porta? Al 90% sono tutti gli italiani che lo vorrebbero. Bellissimo. Allora, continua il casino sulla candidatura a Roma del centrodestra, amico mio. Più tardi avremo Salvini che ci chiarirà tutto, cosa succede, Bertolaso sì, Bertolaso no. Io devo dire la verità, un po' capisco i dubbi di Salvini, adesso non mi dire che sono il solito, eccetera, eccetera. Beh, sì, tu sei certo. No, non sono affatto, non sono nulla. Sei titillato dall'epopea salviniana. Assolutamente anti-rom. No. Come no? Ma no, mi pare che... Sì. Hai introdotto questa trasmissione con la notizia, guarda, del giorno del rom, cosa? Di Mattielli. Ma scusami. Beh, certo, assolutamente. È chiaro che sei titillato. Sì, ma lo sai perché? Lo sai perché? Allora, certamente i rom non sono una cosa che risolve i problemi dell'Italia, no? Questo, su questo non c'è dubbio. Però il modo di affrontare la questione rom, che sono i campi rom, eccetera, eccetera, è fondamentale per capire che cazzo di stato siamo. Cioè, se non siamo in grado di chiudere i campi rom, se non siamo in grado di dire ai rom cercatevi casa come tutti gli altri, siamo uno stato di merda. È per questo che mi fa incazzare la questione dei rom, come su altre cose naturalmente. Ma non è che, è chiaro che con i rom non si risolve nulla, non è che mettiamo a posto la situazione rom e viva e l'Italia è salva. Appunto. Su questo non c'è dubbio. Però è un sintomo di come, di cosa lo Stato è in questo momento, se è capace, se non è capace, eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, io su Bertolaso ho gli stessi dubbi che può avere uno della Lega, uno di centrodestra a Roma. A me non me ne frega niente, io non voto né centrosinistra né centrodestra, non me ne frega assolutamente nulla. Però posso capire uno che, insomma, si è sentito dire da Bertolaso: non ho mai votato Berlusconi, sono un vecchio democristiano, i rom sono una categoria vessata e penalizzata, se non fossi candidato avrei votato il signor Giachetti. Signor Giachetti, a un certo punto oggi l'outing di Cruciani. No, Bertolaso oggi ha detto: mentre rispondevo a Radio Capital stavo cambiando un pannolino stavo cambiando, cioè, che dice, nonno, ero distratto, stavo cambiando un pannolino. E sti cazzi, cerchiamo di ricontestualizzare per cortesia la telefonata. Ero sempre a Londra perché era il giorno dopo la mia adesione a questa richiesta. Avevo in braccio una piccolina alla quale sono legatissimo, mi arriva questa telefonata, spiego loro che io lunedì mattina non posso perché devo andare in ospedale, allora me la fanno registrata mentre appunto stavo cercando di cambiare il pannolino ad una signorina e quindi ho dato le risposte mentre mi trovavo in questa condizione. Ma che vuol dire? Scusa, non è che se uno mette il pannolino a qualcuno è rincoglionito? No, cioè, magari era distratto. Vabbè, ma che vuol dire? Non è che se sei distratto dici alcune cose che pensi, le pensi anche se cambi. Non è che quando uno cambia il pannolino improvvisamente rincoglionisce. Quando io cambio il pannolino sono cogliato su quello, quindi qualunque cosa tu mi dica, magari cosa? Posso dirti anche una cosa positiva sulla Lega, cosa che in un momento di lucidità non direi mai. Non credo, anzi, più se stai lì a togliere il pannolino, a mettere il pannolino, quello che è. Tu non l'hai mai fatto? Ma sì, l'ho fatto, certo che l'ho fatto. Sì, assolutamente, sì. Poi oggi ne ha detto un'altra, che Roma è terremotata e lui ci mette la faccia. Si sono incazzati gli aquilani. Ti credo. I signori dell'Aquila. Signori dell'Aquila. Non voglio fare torto ai miei concittadini aquilani, ma Roma è una città terremotata. E chi la ricostruisce? La ricostruisce chi vuole fare polemica a livello politico con i suoi partner di area o qualcuno che invece si è già gettato nella mischia? Mamma, ragazzi, l'accoppiata Isabella Bossi Fedrigotti e il traffico e violenza gratuita. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, io fumo, bevo, mi drogo, non faccio depilare la mia fidanzata e ascolto La Zanzara. Questo è un passaggio fondamentale, Parenzo, nel grande racconto quotidiano, eh? Ma sembra tutto veramente incredibile, ma ormai figurati, sono strano io, eh? No, ma no, ormai non combatto neanche più, figurati. Mi nel grande racconto quotidiano mi sembra fondamentale questa dopo cosa quella famigliola allegra che ci hai presentato venerdì in chiusura di settimana, di quella signora che candidamente raccontava che fa film porno con il marito. Figuriamoci che la figlia di più maggiorenne sa tutto e lo strano sono io, mi arrendo. E il nonno? Ma il nonno guarda col catetere, ma che fa? Ma una famigliola, guarda, incredibile proprio. Allora, sembra che il prefetto di Treviso, la signora Laura Lega, nome omen tra l'altro, in questo caso sì. Non so cosa ha fatto. No, la signora Laura Lega, tu non sai nulla, come al solito, prefetto di Treviso. Il prefetto di Treviso. No, è importante, ti dico, perché avrebbe detto di fronte a una platea di sindaci questa cosa qui. Ovviamente, se l'avesse detta, sarebbe da manicomio, sarebbe da prendere e internare. Cioè, vabbè, facciamo arrivare l'ambulanza, i carabinieri. Mettiamoci contro anche i prefetti. No, giusto? Ma senti, avanti, che cosa avrebbe detto. Potremmo arrivare a requisire sugli immigrati, no? Potremmo arrivare a requisire le case sfitte per darle ai migranti. Beh, ora, questo però non è una cosa così. No, Davide, no, ti prego. Prosegui. Abbi il coraggio di proseguire. Da un punto di vista. Cioè, secondo te le case sfitte potrebbero essere requisite per darle ai migranti, ai profughi che hanno bisogno? No, dillo fino in fondo se pensi così. Sì, no, ai rom, no, ai migranti. Certo. A quelli, ai rifugiati, cioè, certo, la proprietà privata. Cioè, tu hai una casa sfitta. Un momento. La proprietà privata. No, non fare finta di interferenza. No. Un furto. Io non voglio. Amico. Questa interferenza non la voglio. E voglio il pensiero di Parenzo. Di Parenzo è questo: sì, le case sfitte. In situazioni di emergenza vanno anche requisite. In situazioni di emergenza temporaneamente. Poi vanno rimesse a posto, risistemate dallo Stato. Qualora vi fossero dei danni. Dallo Stato. Qualora le case sfitte, però, in situazioni di emergenza possono essere date ai migranti, rimborsando ovviamente i padroni delle case. Ma rimborsando cosa? Ma quella è requisire la proprietà privata. Ma dico, ma sei pazzo? Ma non è requisire, non è una forma di requisire. Dici, tu la lasci sfitta? Bene, io te la affitto. Ma sono cazzi miei. Io ho una mia casa, la lascio sfitta per 20 anni. E quelli che hanno bisogno della casa li faccio: tiè, io ho 20 case sfitte e te la do se mi paghi quello che voglio io. Ma dico, ma sei matto o no? Per non parlare dei migranti, poi lo Stato che mi impone i migranti in una mia casa sfitta. Ma io credo che non l'abbia detto, eh. Almeno Alfano dice che non l'ha detto, eh. Signor Alfano dice che non l'ha detto. Il prefetto non ha mai detto che bisogna requisire gli alloggi sfitti. Il prefetto non lo ha mai detto e non lo ha neanche. Beh, tutti i giornali l'hanno un po' riportato, però. E guardi, non è vero. Non è vero, dice Alfaro, non è vero. Ma non aveva parole molto decise il signor Alfaro su questo, non è vero. Ci sono i virgolettati. La frase esatta del signor Lega, della signora Lega, Laura Lega, sarebbe questa: potremmo arrivare a requisire le case sfitte per darle ai migranti. Questo sarebbe. Mi sembra anche ragionevole. Ma ragionevole un cazzo, ragionevole un cazzo. Periodo temporaneo, ovviamente, rimborsando il padrone della casa, ovviamente. Vabbè, Fabrizio da Torino, non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più. Fabrizio Torino, dai. Sì, pronto? Dai, vai. Sì. Ciao, Cruciani, ascolta. Complimenti per il CDT, Non si sente, Claudio da Milano, dai, mi sono scocciato. Io da ora in poi mi sono scocciato. Claudio da Milano, Fabrizio, togli quello. Pronto, mi sentite? Vai, Claudio, dimmi. Ah, sono incazzato nero perché mi avete parlato di Bagnasco 7000, 4000. Io faccio parte di quel gruppo di persone incazzatissime che erano davanti a Montecitorio settimana scorsa. A che fare? Che vogliono cercare di rifare in Italia, ripristinare un sistema previdenziale che ormai non esiste più. Sì, ma che sei andato a fare davanti a Montecitorio? Coglioni ai politici, perché c'è perché in mano un decreto. Perché non c'è un cazzo? 5-6. Perché non c'è ma niente da fare? Non c'è un cazzo da fare, ho preso ferie, ho pagato il viaggio e tutto. Ma qua non c'è niente io da tutti fare. Gli altri. No, tu non c'è un cazzo da fare di stronzate di interviso. No, io sono qui, tu sei andato una marea di puttanate a Montecitorio. Le dici solamente senza aver fatto un cazzo. Io ho lavorato quasi 40 anni e che sei andato a fare? Sono andato lì davanti a rompergli i coglioni a quelli perché ci stanno promettendo che dovrebbero ripristinare col decreto legge 857 una quota 41 per gli stronzi come me che a 15 anni sono andati a lavorare non per per divertirsi. Perché mio padre mi ha detto voglio va a fatica e allora? Che soldi non ce ne sono. E allora cosa? Allora ti sto dicendo sì. Tu sbraiti urli cazzo Bagnasco quello gli standard ma non ti ho mai sentito dire che la Fornero ha fatto una merda di legge mai. Non la conosci probabilmente. Ci sono, no, come non la conosco? Dimmi allora come funziona. Sugli esodati hanno fatto una puttanata. Che precoci ti sto chiedendo, quelli che hanno iniziato prima dei 18. Che chiama Focus Economia. Con la testa di minchia di chiama Focus Economia. Leonardo da Padova. Vabbè, va. Vai. Leonardo. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Un secondo che scendo dalla macchina. Eccomi qua. Dimmi. Ecco Leonardo. Ciao, io sono un ragazzo giostraio. Un giostraio, sì. Sì. Cosa mi vuoi dire, signor giostraio? Che mi vuoi dire? No, io volevo intervenire un attimo a proposito dei campi rom, che voi sì. Beh, in particolare ce l'hai un po' su questi rom. No, come sui campi rom, sì, sui sì, campi bravo, rom. Leonardo, si chiama Cruciani, poi gli do l'indirizzo. Giuseppe Cruciani. No, perché devi dare l'indirizzo al giostraio, perché? Aspetta, sì, perché? Io mi dipendo da me, non ti preoccupare, parente. No, ma ti do anche il numero, guarda, sta a Milano, Cruciani, adesso ti do tutti i dati. Perché devi dare il mio indirizzo al giostraio? Fai parlare Leonardo, giostraio. Dimmi. Secondo me, se trovi davanti un rom, te un po' incazzato, te la fai sotto. Ma non è che, beh, certo che me la faccio sotto, dipende che cosa mi vuole fare quel Roma. Se quel Roma mi vuole pistare a sangue o mi vuole dare una coltellata. Sangue, ma anche solo. Comunque, sentiamo cosa ha da dire il signor Giostraio, perché è importante. Dipende, se sono più Roma davanti a me, certo, può darsi pure che abbia paura davanti ai Roma. Qualsiasi cosa succede a te, un Rom. No, non ho detto qualsiasi cosa succede, scusa. Il signor Mattia. Ma reato, anche l'altro giorno ti ho sentito sulla radio uno quando parlavate di quello che cagava davanti alla casa. Beh, quello era un Rom, però, non ero io. Sì, cioè... ma dagli una bastonata in testa, finisci da lì. Beh, ho capito, infatti, no, come bastonata in testa, Leonardo? Scusi, signor Giostraio, però mi pare un po'. Ma tu sei Rom, che cosa sei, Leonardo? Cosa sei, Rom o Sinti tu? Io sono Giostraio, Sinto. Sinto, dunque non sopporti Rom, immagino. No, io a me non me ne frega, bianchi, neri, verdi, gialli, per me è uguale. Diversamente la penso ognuno a casa propria. E dunque perché mi hai chiamato stasera? Ti ho chiamato perché te a volte fai combini un po' cosa? Diciamo non, che... ma non sai nemmeno cosa faccio. Aspetta un attimo che c'ho il giornale radio, aspetta. Più Parenzo, meno Cruciani. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Allora ragazzi, anche Renzi comunque ha capacità teatrali, anche Renzi ha capacità da grande attore, certo, da grande protagonista del sul palcoscenico della politica italiana, per esempio quando imita La Taverna. Bellissimo ieri, lo sbello, come sai, come sai, La Taverna ha evocato in un'intervista una specie di complotto per far vincere il Movimento 5 Stelle a Roma, come se il Movimento 5 Stelle a Roma fosse alla fine quasi costretto a vincere contro la sua volontà e dunque amministrare Roma in mezzo, diciamo, alle macerie, no? Questa è la situazione evocata dalla signora Taverna, senatrice molto ruspante dei 5 Stelle. Renzi, in una riunione del PD, in una delle tante direzioni, come ti l'Assemblea piace? Nazionale, si chiama L'Assemblea Nazionale. Cosa che la gente non capisce, che cos'è l'Assemblea Nazionale. Perché non capisce? Tutti questi organismi, eccetera, eccetera. È l'organismo che, se vuoi ne possiamo parlare diffusamente... Non lo sai nemmeno tu, ma comunque va bene. Che ha gli amministratori, i senatori, i parlamentari, sì. Cioè è l'organismo della dirigenza massimo aperto già a non tutti si è capito. Gli eletti. Già non si è capito, ma comunque... Non mica Renzi, tutti sono Mauro Davanti. Renzi su Taverna, dai. C'è una frase che è strepitosa di una senatrice, una delle senatrici più importanti del 5 Stelle, che ha detto: a Roma ci fanno il complotto. Il complotto, ci vogliono far vincere. Io devo capire perché posso. Noi siamo tutti cresciuti, generazione Aldo Biscardi. Beh, amici miei, ma il weekend è stato segnato soprattutto dalla vicenda Totti-Spalletti, anche chi non è tifoso della Roma, anche chi non è appassionato di vicende del calcio, è comunque stato investito da questa storia, no? Da questa rottamazione di Spalletti, sostanzialmente. Sì, bravo, la rottamazione di Spalletti, il quale ha praticamente cacciato dal ritiro Totti, colpevole, solo per una intervista. Colpevole di un'intervista. Di un'intervista, però. Hashtag stiamo tutti con Totti, ovviamente. No, io sono con Spalletti. Però ti faccio. Ma sai che è incredibile, non ce l'avamo neanche confrontati. Ma manco se fosse stata preparata. Perché tu non capisci le dinamiche del calcio. Il popolo è con me oggi. Stiamo tutti con Totti. Ma perché? Perché? Tutti spiegami. Con Totti. Perché? Perché è evidente, perché non è che per una intervista che quello si sente offeso, dove vengono criticate alcune scelte, tu rottami il capitano. Abbiamo un capitano. Fermo lì. Allora, sì, scusa, fermo. Mi ero fatto un attimo prendere. Non capisci una mazza. Auriemma, cosa dice di questa storia di Totti? Anche se Auriemma segue il Napoli, ma che dice Auriemma? Allora, andrebbe interrogato il professor Auriemma. Allora, Auriemma. La frase però grave di Totti, secondo me, è questa. Quando grave. Dice Steve, no, ma grave, certamente, nei rapporti tra l'allenatore e un giocatore, tra un giocatore molto pesante e un allenatore, la frase è questa: stimo Spalletti, però Sì, il rapporto è buongiorno, buonasera, però lo stimo sia come persona che come allenatore, dico alla società Roma di tenerlo in considerazione anche per il futuro. Dico alla società Roma di tenerlo in considerazione anche per il futuro. Tu però è stato sincero, dicendo no, un grande rapporto, ma lo stimo come tecnico. No, basta, ma quello d'accordo. Fino alla, quello si offende e caccia il capitano. No, ma di che parliamo, fino ragazzi? Fino a là ci siamo. No, ho capito, c'è cosa vuoi dire. Cioè, come parte, dire, siccome ci sono io che dico tenetelo, allora tenetelo, qui comando io. È un messaggio mafioso. Ma è una specie di messaggio mafioso, ragazzi, qui comando io. Ma quello è il numero uno, senza di lui non si va da nessuna parte, ragazzi. Non si andava forse da nessuna parte. Adesso un po' meno. Comunque, amico mio, Trump ha vinto nonostante il Papa, cioè in America di quello che dice il Papa su trans, su trans. Scusa, sono in testa di trans io, su Trump, non importa nulla, non importa assolutamente niente. Trump, che tra l'altro se ne è uscito con una frase memorabile: il generale Pershing a inizio del Novecento giustiziò i musulmani con proiettili col sangue. Ma ti rendi conto? Trump ne dice di tutti i colori e nonostante viene criticato dal Papa e nonostante questo vince. Beh, meraviglioso. They were having a tremendous problem with terrorism. And General Pershing, he caught 50 terrorists who did tremendous damage and killed many people. And he took 50 men and he dipped 50 bullets in pig's blood. And he had his men load his rifles and he lined up the 50 people. Giustiziò i musulmani con proiettili con sangue di maiale. Bellissimo. Ha rievocato un momento storico. Cioè, ne dice di tutti i colori, cose tremende, terribili, eccetera. Eppure la gente lo vota. Eppure la gente lo vota. È un clown. Allora, Federico da Livorno, vai. Sì, buonasera a tutti e due. Dimmi. Io mi chiamo Federico Finocchiaro e sono... Federico Finocchiaro, non abbiamo bisogno del cognome, però no, ci hai fatto... No, scusami. Ci hai fatto gentile omaggio di questo cognome. Non lo sapevo. Dimmi, Federico, dai, anche, dai. Finocchiaro, sì, no, un cognome siciliano, no? Io vi chiamo dalla posizione del Fottiti. Se mi dirai qual è la posizione del Fottiti, io ho 46 anni sì. E ho raggiunto una posizione che posso dire Fottiti un po' a tutti. Sì, il cioè puoi fare il cazzo che ti pare. Un po' come te. Beh, oddio, adesso non sono esageriamo. Sono stato anche presidente per un certo periodo di che? Della CNA di Firenze, quindi sono, diciamo, un po' il vostro concorrente, tra virgolette. Vabbè, Federico, allora quello che voglio dire è che sono contento che in Italia si parli solamente di cazzate. Cioè, se te apri il telegiornale, leggi le prime due cose: finocchi, unioni gay. Sì. Rom, come ne parli te, sì. E nessuno parla degli argomenti importanti, secondo me, che sì. Poi in realtà sono due. Si paga un sacco di soldi di tasse. Vabbè, ho capito, e però non le questo, paghiamo tutti. Questo già lo sappiamo, Federico, cioè non c'è bisogno volta di tornare su queste cose. Cioè io do per assodato, purtroppo, che in Italia si pagano una marea di tasse e le cose non sono cambiate nemmeno durante il governo Renzi. Ma non lo dobbiamo dare per assodato. Ah no, ma lo do per assodato, cioè, dobbiamo risolvere il problema. Questa non è l'oggetto di questa trasmissione, come tu puoi immaginare. No, no, no, certo. Poi se ne vogliamo parlare, vai a sentire Parenzo fuori onda, dove farà una lunga dissertazione sulla diminuzione delle tasse in Italia, cose già sentite miliardi di volte. Oppure vai a sentire Barisoni, vai a sentire qualcun altro. A me ma lo dici come fosse va benissimo, però amico... Barisoni che può essere vice direttore di questa cioè Federico, se vuoi sentire una discussione seria sulla diminuzione delle tasse, su perché tutti sull'evasione fiscale, perché lo devi cazziare? Io essendo nella posizione del Fotti ti avrei chiamato per la casa, in cioè il mio argomento oggi era la casa che il prefetto ci vuole affittare. Io dico, se ci paga, come ho sentito altri comuni, tipo Milano, un prezzo giusto, a me se me lo affittano e me lo paga lo Stato sono contento. Perché beh, dipende come te la lasciano poi. Perché gli inquilini normali come ce le lasciano? Beh, cioè, oddio, case, se ci metti dentro 20 immigrati, con tutto il rispetto, magari è meglio un inquilino. Beh, dipende, però non è detto, beh, non è detto. Dipende, non è detto. Sì, dipende, quindi se mi danno il giusto ma non è così, perché se requisissero, non succederà, se requisissero le case private per darle ai profughi, come dice forse il prefetto di Treviso, non ci sarebbe sicuramente un prezzo di mercato, insomma, come dire, Federico, no, ci sarebbe un prezzo così, certo, un prezzo certo, popolare, come direbbe Parenzo. Sì, insomma, io ho sentito di prezzi a Milano che non sono poi così sui popolari, se sono quelli di cui avete parlato voi, di chi hanno parlato. Non lo so, guarda, io so solo che solo immaginare, come dice Parenzo, come sostiene Parenzo, di mettere mano a una casa di un privato per darla a un profugo, o per darla anche non a un profugo, sì, ma non a qualsiasi gratis, persona, dando un risarcimento mi al sembra, proprietario, mi se... visto che è sfitta. Ma io la voglio tenere sfitta. Sociale, io come, la... ho tutto il diritto di tenerla sfitta. Ma lo Stato ti fa fare il servizio civile obbligatorio. Ma, io, ma non mi interessa, no, non c'è più peraltro. Civilissima. Ma non c'è più. Sai che anche Salvini vuole riportarlo peraltro. Ma non mi interessa. Ma quella è una cosa civilissima, no? Vai, il servizio... quindi dedichi un anno agli altri, allo Stato, eccetera. Ma questa è la malattia dell'Italia, lo Stato prima dell'individuo, e questo è il punto. Matteo dalla provincia di Taranto, è questa la sostanza, che comunque non avverrà mai, ragazzi, tranquillizzatevi. Il prefetto di Treviso si è veramente, sì, ha detto quelle mai, cose, cioè. non può anche mettersi l'anima in pace, dai, Matteo. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. E in merito a questo, una sola domanda: ma perché lo Stato non può utilizzare tutte quelle caserme che sono vuote? E all'interno delle caserme migliaia di marescialli, eccetera, che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, potrebbero, sì, servire, giusto, a questo, no? Io questo non conosco la questione, perché sì, giusto, giusto. So che c'è questi affitti che vengono pagati, sono strapagati. Non lo so, secondo me bisognerebbe ridurre il numero di profughi che arrivano, questo in partenza. Dopodiché, se servono delle caserme in disuso, prendessero le caserme in disuso. Fabrizio Piacenza, vai. Fabrizio, sì, dimmi. Volevo intervenire un attimo, pronto? Dai, dimmi. Volevo intervenire un attimo sul fatto delle cause date ai profughi. Io sì. Si è fatto il filo chiaro dal comune. Sì, amico mio, però devi togliere viva voce, Fabrizio. No, scusate un attimo. Amico mio, dai, forza, su. Di dare in affitto a basso prezzo da casa una musulmana. Ha pagato 3 mesi. Che ne sai che è musulmana? Scusami, spiegami. Lo che so ne io, sai? Perché lo sappiamo. È musulmana, ma chi se ne frega? I musulmani... Sarà che se ne frega, però c'è un concetto generale che espando sempre così. Ma che cosa ha fatto questa signora musulmana? Ho impiegato un anno e mezzo per poter avere dal giudice il fatto dello sfratto. Sì, però, amico mio, Fabrizio, ma questo qua è pieno di italiani non musulmani che non pagano l'affitto. Ma cioè, io parlo del caso... ma ho capito, ma chi se ne frega? Non è che i musulmani, hanno la caratteristica di non pagare l'affitto. Fabrizio, adesso non esageriamo. Va bene l'ordine, va bene... Vabbè, ma quelli sono affari... Ma scusami, Fabrizio. Ha rubato caldaia, immobili. Va bene, d'accordo. Il prefetto cosa fa? È un anno e mezzo che la pratica è ferma. Va bene, Fabrizio, benissimo, per carità, hai ragione, hai ragione sul fatto che il prefetto non fa niente, che ci vorrebbe maggiore velocità, però ti assicuro che non è una caratteristica dei musulmani, come dici tu, di installarsi dentro le case, non pagare l'affitto e rubarsi pure i mobili e tutto quello che c'è dentro. È pieno di italiani che fanno così, pieno così. Adesso non esageriamo, però dai. Gennaro Caserta. Ciao Giuseppe, buonasera. Dai, vai, forza. Senti, no, io volevo dire un'altra cosa. Il pensiero era sempre sulle case. Ma perché non si prendono quelle abitazioni praticamente che sono state tolte ai mafiosi, che stanno lì in disuso da 2, 3, 4, 5 anni e vanno anche in perdita, no? E si utilizzano per queste cose, insomma. Io non lo so, Gennaro. Io l'unica cosa che sicuramente non bisogna fare per dare le case a questi profughi, come dice il prefetto di Treviso, l'unica cosa che non bisogna fare è toglierle ai privati. Io posso tenere casa mia sfitta per 20 anni perché voglio così. Perché mi piace avere una casa sfitta per 20 anni, perché non so che cosa faccio. Sì, però allora deve diventare anti-economico. Cioè bisogna incentivare. Ma chi se ne frega? Cioè bisogna tassare. Infatti ci sono di le, più. Infatti ci sono le tasse. Le case sfitte vanno tassate di più. Allora, tu sei completamente pazzo, dai, pubblico. Sì, assolutamente. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. La Zanzara. Torno a casa con una ragazza, faccio quello che devo fare e poi mi sveglio questa mattina e mi accorgo di aver sognato Auriemma. Ma chi cazzo è Auriemma? Mi state stravolgendo la scala dei valori. Ora mi iscrivo al comitato di liberazione dalla zanzara. Allora ragazzi, è tornata a farsi vedere in televisione Eva Klotz, La no, ma scusi, questo ascoltatore dimmi. Qua, come fa a non conoscere Auriemma? Conosce Auriemma. È come non conoscere Kant, non aver mai sentito parlare di Kant. Adesso non lo pigliare per il culo, dai. Non lo Auriemma! So che ti ha cancellato dai suoi contatti Facebook, Twitter, eccetera. Cos'è che ha... Napoletano, riapri per cortesia il giornale! Auriemma cancella da Facebook Parenzo! Ma dai! Allora, Eva Klotz si ma è... possiamo chiamarla Auriemma? Non rompere i coglioni. No, stasera c'è la partita, c'è il Voglio Napoli. Discutere di attualità, unioni civili con Auriemma, confronto con Auriemma, sui grandi temi della... E perché non parlare della Brexit con Cameron? Perché lo disprezzi così, Auriemma? No. Lo disprezzi, No, momento. Disprezzare non disprezzo nessuno, quasi nessuno, tranne Mauro da Mantova e Donato da Varese. Il resto non disprezzo, ignoro totalmente. Ignori. No, disprezzo... Ignoro totalmente, ignoro ciò che dice, allora, totalmente. Allora, è tornata... in televisione Eva Klotz, la Frau Klotz, la quale prende, come sapete, ha preso un milione di vitalizio, 960.000 euro, quasi un milione di euro dalla regione Trentino Alto Adige. Dice che lei non riconosce il tricolore, lo Stato italiano. Mattarella è una specie di signor nessuno, c'è cioè lo Stato, il presidente di uno Stato occupante, e da Giletti dice che non sono soldi italiani, ripete la solita filastrocca. Però sentite che fra poco vi farò ascoltare uno che è simile a lei, che dice una cosa peggiore di quella che può dire la Klotz. Non sono i soldi dell'Italia, casomai sono i soldi di quelli che mi hanno eletto ininterrottamente 7 volte nel Consiglio. E voglio dire, se voi avete tanto scandalo per noi, o avete tanta rabbia di noi, allora lasciateci andare dall'Italia. Ma non c'è la rabbia per questo, la rabbia è perché una che dice di essere contro l'Italia sputa sull'Italia, adesso sputa lo dico io naturalmente, che disprezza l'Italia, perché di questo si tratta fino in fondo, disprezza l'Italia e poi incassa 1 milione di euro, lei dice di soldi non italiani, e no, ma è sempre l'Italia, il Trentino Alto Adige, cara signora Klotz, sì. Purtroppo ha la forma di autonomia che sappiamo che andrebbe cancellata insieme a quella della Sicilia, eccetera, perché ormai è fuori dal mondo, ma è Italia, fino a prova contraria è Italia, fino là al confine dove si parla quella lingua strana, mezzo italiano, mezzo tedesco, no? Non si capisce bene questa cosa qui, ma comunque è Italia, Italien. No, anzi, come si dice? No, Italia. Italia. Allora, c'è un signore, sempre del partito, credo, della Klotz o simili, che si chiama Pall, il signor Pall, che a proposito dei vitalizi dice una cosa interessante che mi fa venire il sangue al cervello, senti. Io non mi considero una casta, questa legge è stata fatta in un modo quasi una distorsione di tutti i diritti fondamentali della Costituzione, e abbiamo veramente anche ragione, perché indirettamente difendiamo tutti i pensionati dell'Italia, perché se cade una volta il principio del legittimo affidamento, del divieto di non retroattività, sarebbero in pericolo tutte le pensioni del futuro. Questo fa lo stesso ragionamento di Capanna, cioè se ci toccate i vitalizi e i diritti acquisiti, sì, allora è la fine di tutti i pensionati. Il problema è che non esistono diritti acquisiti. Quando hanno dovuto toccare qualcosa, se ne sono sbattuti dei diritti acquisiti. Non possono valere solamente per i vitaliziati o per quelli che prendono il vitalizio. Dovrebbe valere sempre. Allora, secondo questo principio, non si dovrebbe toccare nulla. Capito? Signor Pall. Anche quello là parla un italiano un po' strano, mezzo tedesco, mezzo italiano. Signor Pall. Ma dai, su, basta con queste robe. Allora, parlamentari che non sanno cos'è Santa Maria delle Grazie, anche il sindaco di Firenze. Devo dire che è grave, è abbastanza grave. Abbiamo in ordine, vediamo prima Malan, il nostro amico Malan di Forza Italia. Santa, questo mi sembra la cosa un po' più pesante. Santa Maria delle Grazie. Sai cos'è? Dov'è Santa Maria delle Grazie, Parenzo? Sì. Ma come no? Nella mia ignoranza io lo sapevo, per esempio, perché sto a Milano e perché comunque so dov'è. Insomma, no, Cenacolo, no, giusto, Parenzo, corretto. Cenacolo Vinciano, ragazzi miei, su, ma di che state parlando? Non lo sapevo, signor Malan. Ci sono stati anche degli spettacoli di un grandissimo Peter Greenaway, che tu non sai chi è, che ha illuminato. No, assolutamente. Come? Grande architetto. Regista invece, sì. Uno spettacolo, architetto anche lui di formazione, che invece uno spettacolo straordinario, comunque, al Cenacolo Vinciano, Dan Brown anche semplicemente, solo comunque, per quello, Malan, insomma, no? Senatore di Forza Italia, sì, ma lui è comunque sai che lui è un pastore, ma chi se ne frega, questo protestante. Che non devi conoscere dove è Santa Maria delle Grazie, questo non lo scrimina, diciamo, sì, non lo scrimina. Santa Maria delle Grazie, dov'è? Bella domanda, è abbastanza recente però sta cosa qua, non lo so. Sarà da qualche parte in Toscana, francamente non lo so. Da qualche parte in Toscana, andiamo in Toscana dal sindaco di Firenze. Signor, magari anche lì c'è. Signor Nardella, signor Nardella, senti il sindaco di Firenze. Ci hanno detto che Santa Maria delle Grazie è a Firenze, molti senatori. Di sicuro non è a Firenze, questo io lo dico per certo. Sicuramente, però dai, c'è il cenacolo di Leonardo, dai, un indizio. Beh, è in Toscana. È in Toscana. O in Toscana. Sono sicuro. Signor Nardella, che credo che sia anche professore universitario, no? Se non sbaglio, comunque insegna all'università, se non erro, se non erro. Comunque, il cenacolo di Leonardo è in Toscana, se qui invece a Milano. Vito Petrocelli credo che sia un senatore 5 Stelle. Petrocelli, signor Petrocelli. Lei è mai stato a Santa Maria delle Grazie? No. Quindi non sa dov'è? No, non ci sono mai stato, non so neanche se esista, no. Claudio da Bologna, vabbè ragazzi, ho detto tutto, dai, Santa Maria di Grazia lo sapevo persino io, eh. Claudio da Bologna, dai. Pronto? Dimmi. Ciao, ciao a tutti. Vai. Niente, io volevo far notare a Parenzo che lui si contraddice, perché mentre difende i Rom a spada tratta... Non difendo i Rom... Li difendi, e poi minacci i cruciani di dare il suo indirizzo al giostraio, quindi... evidentemente no. Tu lo minacci, quindi ritieni che giostraio sia una persona violenta. No, non ho minacciato nessuno, ho detto sì, no, hai detto do l'indirizzo, così si confrontano minacciato. Ma perché non c'è nessun confronto? Non c'è nessun confronto con così i signori si rom. Parlano un attimo, tanto non è rom quel signore lì, ma è sinti, un giostraio sinti, quello lì. Quindi, è lo stesso, italiano, lo non è. Va bene Claudio, grazie. Adriano Roma, vai. Adriano, guardi, dimmi. Solo un'informazione, visto il prefetto che Parenzo avallava, che diciamo, sì, secondo Parenzo è giusto in alcuni casi requisire le case dei privati per dare ai migranti. Sì, con un risarcimento, ovviamente, a tempo determinato. Una casa vuota, quello che ci pare, la casa è mia, diciamo, finché non mi obblighi va bene. No, infatti in questo caso ti obbligano, finché non mi obbligano, è proprio questo il caso. No, il brutto è proprio quello, è riuscire a capire se secondo voi la pagherebbero a canoni tipo quelli avvantaggiati, che potremmo definire così, che fa il Comune di Roma per gli amichetti, oppure ce la possono occupare direttamente e poi ci cacciano, oppure eventualmente ci fanno qualche causa, tipo quel poveraccio che è morto di crepacuore e in pratica quello si deve vedere ciucciare la sua eredità, le sue proprietà da due zingari e zozzoni che hanno rubato e tutto il resto. Guarda, Adriano, tranquillo, non succederà mai. No, non succederà, però bisogna dire che solo il fatto che venga un prefetto l'idea di requisire delle case dei privati sfitte per darle ai migranti per reggere l'urto dei migranti, vero, come mi sembra tu. No, potrebbe non essere vero, però io ho letto dei virgolettati sui giornali, o si sono inventati tutto, perché era ad una riunione di sindaci i quali poi hanno riportato quelle frasi. Dunque lei probabilmente davanti a questi sindaci del Veneto ha detto queste frasi, o della zona di Treviso ha detto queste frasi, ha detto potremmo anche requisire le ville, no, le case sfitte per darle ai profughi. Giuliano Caserta, vai. Sì, ciao, volevo fare una domanda a Parenzo. Sì. Ma per quale motivo le case sfitte deve pagare di più di tassa? Ma non lo so, ragazzi, è mica focus economia, queste che veramente vogliamo parlare di case sfitte da tassare. Io che ho detto matti? Semplicemente che per disincentivare questa, ragazzi, pratica, eliminiamo questo argomento e rimetterle sul mercato, così si abbassano anche i canoni di locazione. Marco dalla provincia di Siena, dai. Semplice. Marco. Buonasera, è stato complicato. Marco, alza la voce un attimo, dai. La voce di Renato Farina, questo qui. Sì, senti. No. Marco, Marina, non la conosco neanche. Vai, dimmi. Cara. Tanto buonasera a voi, dico. Sì, va bene, dai, poi. Mi sembrava, dico, la polemica che ha fatto Totti, dico, con l'allenatore della Roma, prettamente giustificata, anzi è squalificabile, dico, per il personaggio di sport che rappresenta. Dico. Ma in che senso? Non ho capito, scusa Marco. Perché è inqualificabile, cioè, se un personaggio carismatico dovrebbe rappresentare il leader di una squadra, fa una polemica col proprio allenatore, già non è più un leader, ma è già una persona da sottovalutare sul punto di vista sportivo, che quando fa queste affermazioni verso un ruolo dovrebbe coadiuvare. Io quindi non mi è piaciuta, e condivido anzi la sua affermazione. No, ma secondo me la frase, uno può fare tutte le critiche, siamo nel campo del calcio, figuriamoci. Secondo me la cosa più assurda è il messaggio un po' mafiosetto che Totti lancia al suo allenatore dicendo: beh, poi lo consiglierò come futuro allenatore della Roma. Ma no, nella... è un modo di dire, ha detto comunque come... lo considero un bravo tecnicamente. Non ha ammesso di non avere nessun rapporto personale. No, vabbè, e di non stimarlo ma sul piano personale. Il punto personale. È il messaggetto un po' mafioso in cui si dice, messaggetto? Qui comando ancora io e sono io a decidere se tu vai bene. Certamente, il suo male. Parere, come è giusto che sia, uno che conta, perché non è uno scalzacani qualunque, pur sempre il capitano. Va no? bene, dai. Enzo da Roma, vai Enzo. Enzo? Sì, ciao. Dimmi, caro. Dunque, nel 65 ero guardia di finanza sì. in Alto Adige. Sì. E una caserma, la nostra caserma, fu fatta esplodere dal sì. martellatore della Valpastiglia. Cioè il padre della Glotz. Bravo. Bravo. Cioè sei stato praticamente oggetto di un attacco terroristico del padre della sì. Klotz. E io vabbè. Che ci hai rimesso? Niente. Un braccio, una cosa? No, niente. No, io niente. Ma il mio caro amico Martino Costu fu sì. ucciso. Sì. Aspetta. Insieme a un brigadiere e a un tenente. Lo so, poi c'è stata la politica. Sì, quello che dico io, è possibile che noi diamo un miliardo alla figlia che all'epoca... No, un milione di euro, un miliardo, non esageriamo, un milione di euro. Sì, dai. Vabbè, insomma, quello che è. Ma quello purtroppo sono i famosi diritti acquisiti, cioè nel senso lei ha fatto il parlamentare alla regione Trentino Alto Adige, ha versato i soldi che hanno deciso loro tra di loro quanti e come assegnarli e poi adesso ha questa pensione che hanno anticipato, un conguaglio adesso, insomma, non andiamo nel tecnico. Comunque le hanno dato un milione di euro che è praticamente... tutta la pensione che deve prendere, capito? Io quello che chiedo è possibile che noi diamo a questa persona che all'epoca non era una ragazzina tanto piccola. No, ma il padre, caso... il padre. Sì, il padre. Il padre che non ha provocato solo questi morti, tanti altri. Io ho capito, ma il problema non è il padre, perché non è che le colpe dei padri ricadono sulla signora. Il problema è che oggi che una signora dica, il Presidente della Repubblica, Mattarella, non è mio Presidente, e l'Italia è un paese occupante, è l'Italia che dà questi soldi. Questo è il punto fondamentale, dai. Allora, David, come ogni lunedì con noi, Matteo Salvini, buonasera! Che bello essere sempre in vostra compagnia. Che bello, è un bel modo di cominciare la settimana nel nome... C'è quella bella canzone di Vasco, Odio il lunedì, ci sarà qualche ascoltatore che cambia frequenza, però mi spiace per lui. Ma qual è la tua canzone preferita, Matteo? Via del Campo di Fabrizio De André. E com'è che fa l'inizio che non mi ricordo? Bellissimo. Beh, via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada. Senti una cosa, vabbè, da De André andiamo a Roma, caro Salvini, andiamo a Roma. Allora, oggi ho sentito di nuovo Bertolt. Vado a fare due passi a verificare come vengono spesi i denari pubblici in un campo Rom. Dove vai? In un campo Rom? A Roma. Certo, sono il comune ha appena deliberato altri 5 milioni di euro per l'integrazione dei Rom. Sì, incredibile quello, devo dire la verità. Realizzando anche i mercatini di merce usata. Come fai a parlare di merce usata in un campo? Abbastanza incredibile. Se è vera quella cosa che scrive il Messaggero, che il comune di Roma, cioè il commissario in realtà, ha legalizzato in pratica i mercatini di merce usata, cioè rubata in sostanza, cioè ferro, ferraglia, eccetera, eccetera, la cosa è abbastanza incredibile. Vabbè. Io non ho capito una cosa, chi è il candidato a Roma? Cioè questo non abbiamo capito, nessuno non ha capito. Non ho capito neanche io. Non beh, so, no, tu dici, dicono, la Meloni dice che hai tradito un patto che avevi praticamente firmato per Bertolaso. Cioè c'era una cosa da firmare? No, io avevo sostenuto il ritorno in campo di Bertolaso, poi il giorno dopo mi dice che i Rom sono stati penalizzati, il giorno dopo dice che aveva sostenuto Rutelli, il terzo giorno dice che se non si candida lui voterebbe quello del PD. Giacchetta, sì. Detto questo, siccome io non ho la scienza infusa, anzi, e ci arrivo in punta di piedi a Roma, visti i trascorsi della Lega, quello che posso fare è che sabato e domenica prossima saremo in 50 piazze romane chiedendo ai romani che cosa vogliono e che cosa pensano. Sì, d'accordo, ma che cos'è questa roba? Cioè il candidato oggi. Berlusconi ha detto che è Bertolaso, la Meloni oggi c'è il candidato di Berlusconi e della Meloni, su cui Salvini dice: ragazzi, patichiana amicizia lunga, ad oggi voglio capirci qualcosa in più, perché se la sua visione di Roma non è uguale alla mia, non me lo ordina il medico di sostenere qualcuno. Tu dici, siccome ha detto, ha elogiato Rutelli, ha detto che se non si candida vota quello del PD, che non ha votato Berlusconi, che i Rom sono vessati e sono vittime, per tutto quello che ha detto... Come fa a amministrare con la Lega, scusa? Questo è il problema tuo. Voglio chiudere con Parisi o a Milano, questo problema non l'ho avuto, nel senso che non è leghista, è bravissima persona, bravo imprenditore, ci stiamo confrontando su cosa fare della città, il carcere, l'ortomercato, i mezzi pubblici. Lui dice che oggi Bertolaso ha detto che tu gli avresti detto sei il nostro candidato, cioè tutto questo sì, tu dici prima che lui partisse con quella serie di stranezze, cioè cosa sarebbe meglio, non ho capito, cioè sentire la politica non riesce a decidere, che scelgano i cittadini, dunque meglio le primarie. Non è brutto dire io, ragazzi, io non ci riesco, se volete per la vostra città datemi una cioè mano, meglio le primarie a questo punto. Ma su Roma sì. Ma secondo te Bertolaso a questo punto si dovrebbe ritirare? Cioè, viste tutte queste polemiche? No, ma lui è convinto. È azzoppato. È azzoppato, cioè, però, dai. Parte azzoppato. Ci parli al popolo, parli ai romani, ha detto quello che dà le sue idee, i suoi progetti, ci dica che cosa si può. Per me un discrimine sono le Olimpiadi, ad esempio. Cioè? Non si possono sbattere via miliardi e miliardi di euro quando c'è, cioè, non vanno fatte nell'incuria totale, ma figurati, penso che l'ultima cosa di cui abbia bisogno Roma e l'Italia in questo momento siano delle Olimpiadi. Cioè, ho capito, ma tu dici no alle Olimpiadi mentre Bertolaso ha detto di sì. Quello dice che i Rom sono vittime e tu dici che vanno eliminati i campi Rom, ma qui siamo agli antipodi. Allora, siccome magari ha ragione lui e io sono fesso, facciamo le primarie e decidiamo. Appunto. Senti, questo Fabio Rizzi lo avete cacciato dalla Lega o no? Abbiamo già sospeso da tutte le cariche possibili e immaginabili, non essendo possibili altri interventi. Da quello che hai letto, è un caso chiaro oppure tu dici bisogna essere garantisti? Cioè, quello che ho letto c'è poco da difendere. Io difendo un uomo anche della mia squadra. Se ritengo che sia ingiustamente accusato, e l'ho fatto in passato, e ci sono magistrati. Anche adesso con Rizzi esatto. Lo fai. Se invece si legge di soldi qui, soldi là, soldi su e soldi giù, sulla pelle della gente, della sanità e della Lega, perché poi la figura di fango per colpa di qualcuno ce la fa pure la Lega, e allora non difendo. E dunque probabilmente sarà espulso? Sì, ma l'ho già detto. Ma nessuno controllava, per esempio, dove vengono i soldi delle campagne elettorali, i suoi legami con queste aziende private della sanità, la compagna. Cioè, voglio dire, Maroni è innocente. Ovvio che non c'entra, ragazzi. O cerchiamo di alzarci la mattina facendo funzionare i treni, gli ospedali, le scuole, o facciamo gli investigatori privati. Ma io non ho capito, ma metteresti una taglia uguale a quella di Grillo perché cambia gruppo? 150.000 euro. No, però un marchio di infamia. Sì, io renderei illegale. Io avevamo proposto nella modifica della Costituzione il divieto di cambiare partito, cioè, una volta eletto. Dovrebbe essere illegale. L'avevamo proposto noi come modifica alla Costituzione, ovviamente non ce l'hanno accettata. Ma Grillo fa bene allora a fare questa roba? Sì, fa benissimo. Perché mettila pure tu per la Lega, no? Quando fai noi candidare? Abbiamo già le nostre sanzioni e controsanzioni. Adesso per tutti i candidati farò firmare addirittura il codice antimafia, tutto il possibile. Cerco di prendere tutte le precauzioni possibili e immaginabili. Cioè codice antimafia, poi che gli fai firmare? Uno può firmare qualunque cosa. Sì, però. Vabbè, certo. Gli chiedo la fedina penale, il casellario giudiziario, quello è normale. Tutto quello è normale. Mettigli la multa di 200.000 euro, così almeno nessuno sgarra. Che ne so. Cioè... Vabbè, guarda, se uno cambia casacca, proprio ho tanti difetti, ma non quello di cambiare bandiera a seconda delle convenienze. Quindi se i grillini mettono 150.000, io ne metterei 151.000. Ah, per cui lo metteresti questa cosa? Sì, poi non so quanto è legalmente percorribile. Allora io concluderei però con De André, caro Parenzo. Attenti al gorilla. Un giudice spettacolare, la canzone di André, un giudice. Beh, è terribile, a però. Qualche giudice la dedico. Come fa? Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Come fa? Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Te lo rivelano gli occhi. E le battute della gente. O la curiosità di una ragazza irriverente. Dai, sono stonato con una campana. Che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Ma dov'è la parte? Vuole scoprire se è vero quello che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù, meno apparente fra tutte le virtù, la più indecente. E qua adesso interviene Crociani con una tirata di un tre quarti d'ora sul sesso orale. E gli ho introdotto passano gli anni, mesi, e se li conti anche i minuti, è triste, trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste e batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna, di sicuro, perché il cuore è troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore. Per imboccare la strada che dalle panche d'una cattedra. La cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente arbitro in terra del bene e del male. Va bene, ciao, presto, ciao. Bacio. Mamma mia, ci arrestano per vilipendio a De André qui. È bravo, esatto. Io fossi nel figlio cristiano farei immediatamente causa per Salvini. Vilipendio a per De André. Danni. Mamma mia, come è venuto in mente a un certo punto? È una delle poche canzoni che conosco, capito? Cosa, vergognoso. No, è vergognosa, non esageriamo. No, dai, vergognoso. Enrico da Modena, vai, Enrico. Ciao, buonasera. Dimmi. Io ho visto l'intervento domenica della Clot, veramente da ridere. Allora, dimmi. Hanno rotto veramente le palle questi qua dei separatisti, vogliono andare, piglia, molla, tira, vogliamo tornare in Austria. Ma andateci, nessuno li ferma, è che loro vogliono portarsi là soldi, terra. Ma noi come non rompiamo i coglioni all'Istria? Basta anche questa cosa qui dell'Austria. No, ma confini. Scusate, però che differenza c'è tra la Clozze e un leghista di 10 anni fa? Nessuna. Non volevano l'indipendenza della Padania, via da Roma, eppure i soldi erano le lire all'epoca. Nessuna, non c'era peraltro i movimenti separatisti in Trentino sono stati anche alleati di governo del centro-sinistra. Chiedi a Boso, appunto. Quindi voglio dire, ci scandalizziamo di che cosa oggi? A me la Padania mi faceva schifo, come mi fa schifo anche la. Ma non lo dicevi in modo come così vibrante. Abbiamo preso per il culo. Eri un po' affascinato da questa indipendenza del nord, dal dio Po, da quei signori con le corna sulla terra al Monviso. Mai stato affascinato da queste puttanate. Mai affascinato da queste puttanate. Voglio Crociani come sindaco del mio paese e Parenzo come Netturbino. La Zanzara. Parenzo, chiama tua moglie. Fidati, avvisala prima di tornare a casa. Prendi il cellulare e dille: amore, sto tornando tra le tue braccia. Siamo al top. Parenzo, ce l'avrai anche piccolo, ma mi fai arrapare. Pubblicità. Notizie dal mondo animalista. Ma è un luogo di diffamazione quella messaggeria telefonica. Questo totale diffamazione di tutto e di tutti. Ma è proprio di una bassezza. Chiama la bassezza, per me ci sono delle cose geniali. Allora, Red Canzian, l'ultima frontiera degli animalisti, anzi ultime notizie dal mondo animalista. Sì. Uno dei membri dei Pooh, signor Red Canzian, dice questa cosa sui maiali, sentite. I maiali sono più intelligenti dei cani. Addirittura, per alcuni esercizi, superano l'intelligenza dei primati, ad esempio nell'abilità dimostrata con i videogiochi. Le loro capacità cognitive superano quelle dei bambini di 3 anni. E vabbè, e qui siamo coi maiali, no? Nell'ambito dei maiali. Poi ci sono anche questo è vero che i maiali sono considerati. Sì. No, può essere, questo sì, dico sì. Questo. I videogame. Che poi sappiano i giocare con i videogame. Ecco, questo. Non lo so. Mi viene qualche dubbio. Comunque, le mucche. Le mucche memorizzano i volti di coloro che incontrano, così come i luoghi che visitano, e sono capaci di risolvere problemi complessi. Questi docili animali provano emozioni positive e a volte addirittura saltellano quando riescono a trovare la soluzione di un problema. Ah, le mucche risolvono i problemi anche complessi. Ho scoperto nel weekend, però penso che esistono delle beauty farm per animali, per cani soprattutto, beauty farm, cioè, molto diffuse, delle spa per animali, soprattutto per i cani. Senti qua, senti questa cosa qua, per il cane abbiamo la piscina, il massaggio, ma è diffuso soprattutto negli Stati Uniti, però ho trovato degli indirizzi anche in Italia, di beauty farm per cani e soprattutto per cani però. E ora andiamo a dare un'occhiata a una beauty farm esclusiva per capire quali attività può offrire a Chase per dimagrire. Cosa avete in serbo per Chase? Lo faremo nuotare in una piscina tutta per lui. La nostra istruttrice gli farà usare muscoli che a casa non è abituato a usare. Sta sempre seduto. Poi si godrà un bel massaggio, perché è vero che vogliamo fargli bruciare le calorie, ma vogliamo anche che ciò avvenga nel modo corretto. Ovviamente gli daremo anche uno snack sano che prepareremo apposta per lui. Ragazzi miei, Chase, com'è che si chiamava Chase? Lo snack sano per Chase. Cioè, c'è gente in America che porta gli cani lì per farli dimagrire nella beauty farm, capito? Nella spa. Senti il massaggio ai cani com'è? Il massaggio ai cani. Chase ha lavorato sodo per buttare giù qualche caloria, quindi si merita un trattamento davvero viziato. La differenza tra le carezze e i massaggi è esclusivamente nel tocco. Giù fino in fondo. E adesso, usando i pollici, massaggiamo con delicatezza la testa, così, intorno alle orecchie. Posso ripetere la battuta che mi ha fatto un mio amico che mi ha mandato via messaggio sentendo questa cosa qua? Non lo so, ti prendi tu la responsabilità. Anche nelle zone termali, in alcune zone termali di mia conoscenza, le vasche sono piene di vacche. Dico solo questo, basta. Ho detto questo, basta. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Sai che cosa farei io? Io tenterei di fare un collegamento col signor Vendola. Col signor Vendola in America. Con Nikita. Sì, Vendola, come sapete, ha detto una cosa incredibile negli ultimi giorni, no? Ha scritto: è urgente ricostruire una trama di comunità capace di guardare il mondo senza le lenti deformanti dell'ideologia dominante. È urgente ricostruire una trama di comunità. Sì. Capace di guardare il mondo. Aspetta, vediamo se lo becchiamo. Ma non risponde, aspetta, in America. Lo so, in America, lo so. Fuso orario. Aspetta. Questo trans a chi lo do? Lo darò a di testa e sarà una gran. Ma scusi, Vendola? Sì. Sì, sono Cruciani, buonasera, c'è anche Parenzo. Ah. Ma che succede, scusi, che sta facendo? È urgente ricostruire una trama di comunità capace di guardare il mondo senza le lenti deformanti dell'ideologia dominante. Non si è capito nulla, scusi. È partito. Cioè, che significa? In California mi sto allenando spiritualmente a diventare papà senza essere giudicato aspramente. No, ma scusi, parte che è già in California, questa è una notizia, ma dunque in breve tempo l'utero in affitto darà questo frutto così agognato, diciamo, questo bambino, no? Beh, mentre in Italia alcune forze di sinistra stanno costruendo un nuovo soggetto politico alternativo rispetto al PD di Renzi. Che c'entra? Io e il mio compagno Ed qua in California stiamo costruendo un nuovo soggetto biologico alternativo. Ma scusi, ma che c'entra? Ma cosa vuol dire? Alternativo a cosa? Scusi, alternativo è un bambino. Alternativo alla mitologia negativa del diverso, alla barbarie dell'ipocrisia omofobica dei 5 Stelle. Che c'entra il bambino con i 5 Stelle? E speriamo, c'entra, speriamo al nostro ritorno di trovare un paese diverso, con nuovi diritti. Ma che fa? Ma non lo so. Chissà quando partorirò. Ma no, ma non partorisce lui. Canterò Love Me Tender perché avrò un figlio. No, ma scusi, no, ma che, adesso si fermi un attimo, scusi, ma di che stiamo parlando? Sì. Cioè, ma qui, che cosa? Ma qui pare che l'adozione venga stralciata, non ha sentito, Vendola? Cioè, l'ultima notizia è che verrà stralciata l'adozione, cioè non se ne fa nulla. Ma come sarà questo bambino? Non ho capito, ci spieghi. Sarà un bimbo mix. Cioè? Che una mix? Sorta di succa arabo. Ma come bimbo mix succa arabo? Sarà un maschio, sì? Nascerà già con l'orecchino, sì? Ma come? E sarà un bimbo ecologico, cioè non sporcherà i pannolini. Ma come si fa a sapere? Sarà pulito. Ma come si fa a sapere? Poi, si sa, i zigomi saranno quelli di Ed, avrà il mio estro nel cantare le filastrocche, poi un occhio verde e un occhio blu in ricordo di David Bowie. Ma scusi, ma di chi è, da chi è fatto questo bambino? Di chi è, diciamo, il liquido seminale? Cioè, chi è l'inseminatore? Adesso mi scusi, Vendola, se è un mix dei nostri spermatozoi aggrovigliati in un simbolico abbraccio. E ma il nostro è il seme dell'amore universale. Ma scusi, ma non teme quello che succederà in Italia quando torna, le critiche, l'utero in affitto, le cose? Io immagino già gli epigoni del berlusconismo, i vari Gasparri o Giovanardi, che non mi chiameranno più Vendola. Ma come? Comprola. Ah, lei già anticipa le battute, dice non posso si chiama... immaginare la bassezza di certe battute omofobiche. Beh, scusi, Comprola, sì, effettivamente Comprola ci sta, invece di Vendola, Comprola. Si tratta di battute di pessimo gusto. Sì, lo so, sì. Comunque, beh, ha ragione, Rabianzi, sì, come direbbe la sua amica Luxuria, auguri e figli trans, sai che ha fatto questo. Ma che fa? Ma non c'è neanche il bambino? Ma che canta allora? Si sta allenando. Lo chiameremo. Ma si allena di cosa che non c'è? Rocky Rambo. Ma che c'entra Rocky Rambo? Anche se poi butta strada. Grazie, grazie Vendola, grazie, arrivederci. Francesco dalla provincia di Napoli. Francesco, va. No, volevo intervenire, ma quando riguarda se è vero la dichiarazione che ha fatto la prefetta, come dice la prefetta di Treviso, per quanto riguarda i requisiti alloggi privati, ma sicuramente la prefetta e la sua famiglia avranno degli alloggi privati per conto loro, perché non inizia lei a dare questi alloggi agli immigrati? La prefetta, noi sì, io chiamo il prefetto, la Boldrini non mi avrà mai, insomma, come ma nemmeno dire, a me, era battuta che ho fatto. Allora, amico mio, non lo so, ma non succederà mai. Queste sono frasi dette da un è prefetto. È vero che quello che ha dichiarato. Può cominciare da casa sua. E più un'altra cosa, scusa Peppe, vedi, ci sono le elezioni comunali. Sono amici, sì. Ma le elezioni. No. Beh, sì. Parenzo, si faccia parlare per favore. Sì, vedi, sono contento che con me mi chiama. Guarda, questo è interessante perché a me mi chiama Parenzo e quindi prende una distanza e ne sono soltanto felice. Ma sono gli amici, chiamo per nome. Beppe, amici, sono amici, ma infatti ti dà l'idea del livello. Sono amici, benissimo, magnifico. Ma basta dirlo, sono amici. Beppe, vedi, da poco c'era una elezione comunale. Perché a Napoli nessuno si ricaga? Si parla soltanto per i mass media, Milano e Roma. Mass media, parlo solo linguaggio, parlo, vedi, uguale. Io non parlo nessun linguaggio uguale a lui, cioè non ho capito. Francesco, perché a Napoli ci sono meno casini, a Roma ancora non hanno deciso i candidati. A Napoli ci sono meno casini. No, ci saranno casini anche a Napoli, figuriamoci. No, non viene pubblicizzato in niente, non sono presi in considerazione Bassolini e Company, questa Manfrini che stanno facendo con 4 Parenzo, di qualcosa a Francesco dalla provincia di Napoli. Ma è un amico tuo, non mi permetterei mai di dire qualcosa. Beppe. State zitto, Parenzo, dai, state zitto. Va bene, Simone Padova, dai, Simone. Sì, allora, ciao innanzitutto, grazie per avermi chiamato. Allora, niente, prima sentivo un ascoltatore che se l'aveva presa con Spalletti perché non aveva fatto giocare Totti e bla bla bla. Niente, a me viene da pensare una cosa, da italiano medio. Cioè, allora, l'Italia va in subbuglio perché Totti viene lasciato a casa la mattina della partita. Però quando ci sono aziende che chiudono, gente che sta male... Ma cosa c'entra? Vabbè, non c'entra una mazza, qui insomma, sta parlando di pallone, non è che si sta parlando di gente che va in mezzo alla strada. Non è che una cosa in alternativa a un'altra, no, però. Il discorso era che quando si trova qua, l'Italia scende in piazza. Ma nessuno è sceso per Totti, ma Simone, non dire coglionate, dai, nessuno pensa, non è che c'è gente che rimane in mezzo alla strada, Totti è un uomo ricco e resterà ricco nonostante questo litigio, cioè che cazzo c'entra, dai. La gente si appassiona al calcio, adesso non è che bisogna sempre pensare a chi c'ha le pezze al culo. Caso, però non si appassiona a quelli che sono veramente i problemi reali. Ma non dire cazzate, basta con queste stronzate, non dire stronzate, dai, basta. Che sia pelosa o depilata, la patata deve essere pirsata. La zanzara. Sono Isabella Bossi Fedegotti, presidente di Puss Italia. La nostra ONG pensa agli ultimi degli ultimi cespugli. Io stessa non mi depilo dal 1944. Adotto un cespuglio a distanza, salvo una passera dalla barbara usanza del Brazilian Wax. Aiuto, aiuto, aiuto. La signora. Aiuto, aiuto, aiuto. Non c'è, c'è oltre questo che cosa può accadere. Io veramente. Questa è geniale, devo dire. Questa aiuto, parodia aiuto, della pubblicità aiuto, della Bossi Fedegotti non è male. Ma dove si arriverà? Cioè a che cosa si può ancora arrivare? Ma questa è una parodia, è una semplice parodia della pubblicità, no, oscena, devo dire, della Bossi Fedegotti. È geniale, dai, su. È il suo modo, non c'è dubbio. Salviamo, salviamo. Abbiamo capito, sto ridendo anch'io, abbiamo capito. Cioè se non facessero pubblicità così assurde non ci sarebbero nemmeno anche le parodie. La pubblicità critichi ora. Le parodie, cioè, nell'ordine. No, non momento, è la pubblicità, cioè... tra l'altro, non è pubblicità. Dai, non è pubblicità quella. Allora, andiamo di nuovo dagli ascoltatori. Maurizio da Roma, vai Maurizio, vai. Buonasera. Dimmi, Maurizio, dimmi. È pur vero che è sempre calcio, però tutti parlano porci e cani su Totti. Cani e porci al limite, comunque. Cani e porci. Sì. Per fortuna, per fortuna in Italia c'è la libertà di parola fino a prova perfetto. Contraria, fino all'arrivo di Maurizio. Ecco, di qualsiasi, di, per qualsiasi squadra si faccia tifo, di qualsiasi, come ecco. Dire, no? Anche o no, o no, lei vuole cambiare le regole. Ma come? No, no, no, no, no. Ah, tu bene. Siccome che c'hai delle tendenze un pochettino biancazzurrine. Beh, ma bene, che c'entra? Io me ne frego. Abbiamo tutti. No, no, no, no. Ma niente, volevo dire che tu per fortuna non ho il prosciutto dire... davanti agli occhi, dunque giudico le cose. Certo. Io ho sempre però... apprezzato Totti, io sempre, dire, ho sempre pensato Totti, cosa? Dire che Totti ha fatto delle affermazioni un po' mafiosette verso sì, Spalletti. Ovviamente no. Io non ho paragonato Totti alla mafia, no, questo no, è evidente, no? No. Cioè, io ho detto semplicemente che c'è in quelle parole di Totti, nell'ultima parte dell'intervista al TG1 alla signorina Scarnati, so esatto. Che a Sky sono anche incazzati, dicevano oggi, perché l'esclusiva è stata data di quell'intervista con lo scoop alla Rai, che non paga i diritti del calcio e non a Sky, certo. Ma lasciamo perdere questo aspetto. Ecco. Caro Maurizio, io ho semplicemente detto che la parte finale di quella dichiarazione di Totti... No, ma guarda che la parte finale detto no, ma che la parte... Spalletti è un grande tecnico e sì. Che può fare benissimo no, il no, tecnico no. Della Roma. Lui consiglierà. Qui. No, ma ragazzi, però se uno vuole vedere le cose come vengono dette, bene, se no, uno tu le vedi a modo tuo. No, amico mio, no Maurizio, ma io no, non devo necessariamente prendere le parti, tra l'altro qui si no. Tratta di cose interne alla Roma, dunque io potrei anche fottermene. Ecco. Non è quello il punto. Il punto è molto semplice, che quando uno dice consiglierò alla dirigenza lui... No, non ha detto consiglierò Giuseppe. Guarda, senti, ti faccio riascoltare. Guarda, ti faccio riascoltare. Fallo riascoltare. Ti faccio riascoltare, Maurizio. Ti faccio riascoltare questo passaggio di Totti perché è molto okay. Chiaro. Io l'ho interpretato come un messaggio mafiosetto. Io ho detto nel senso che Totti vuole dire a Spalletti, amico mio, sono io che comando qui. Cioè, alla fine. Non sono io che comando. Il suo parere rimane comunque importante. È evidente perché che invece... non è l'ultimo bubù. E invece Spalletti, giustamente, vuole riaffermare oggi il potere dell'allenatore che ha un rapporto diretto con la società senza la mediazione di un giocatore importante come Totti. Ma questo mi sembra abbastanza chiaro. Sentiamo. Sì, il rapporto. Buongiorno, buonasera. Però lo stimo. Sia come persona che come allenatore, dico alla società Roma di tenerlo in considerazione anche per il futuro. Dico alla società Roma di tenerlo sì. In considerazione per il futuro. Ma no, come dire, allora, era riparativo rispetto. Guarda, sì, è ma inaccettabile i tra Totti, quello che i ha rapporti fatto tra questo, Spalletti. Questo signor Spalletti. Inaccettabile. Perché si è. Come dicono a Roma, gli ha roso, come dicono qui, no? Te rode il culo, no? Dicono no, qui. Ovviamente il contrario, sembra il contrario. Comunque. Gli ha roso Maurizio, il che vuoi fatto dire, della critica di Totti. Mi fa dire una cosa, per dimostrarti la sì. Mia. Onestà intellettuale come romanista, sì. Ti dirò di più che Totti ha proprio sbagliato il momento prima della partita con il Palermo, il modo, ha convocato a Trigoria una truppa del TG1, sì. Ora doveva chiedere l'autorizzazione alla società. Quello, credo che l'abbia chiesta l'autorizzazione. No, fino a prova contraria lui è stipendiato dalla Roma. Io credo che un'intervista dentro Trigoria non è che si possa fare senza l'autorizzazione della società. Ti sto dicendo che Totti forse in 24 anni di carriera giallorossa stavolta ha sbagliato nel modo che ha fatto questa cosa. Ma questo messaggio qui bisognerebbe capire il parere di Emma su questa questo vicenda, messaggio qui è un messaggio che dice, che vuole dire a Spalletti: guarda che io ancora peso, ancora sono determinante, ancora conto, e anche sulla tua permanenza qui conta il mio parere, capito Maurizio? Questo vuole dire, e da qui la reazione secondo me di Spalletti è tutto abbastanza chiaro da questo punto di vista. Andiamo a Trento, provincia di Trento. Ivano, vai. Ivano, dimmi. Non c'è Sergio, sì, provincia di Latina. Dai Ivano, dimmi, dai. Allora, volevo dire innanzitutto che il calcio è uno schifo per i soldi che girano in quello che prendono. Ma che vuol dire? È una stronzata questa. Beh, il calcio è uno schifo per i soldi che girano. Dai, su, non dire stupidaggini. Magari come vengono gestiti i soldi è una cosa diversa. Ma no, per i soldi che girano. Cioè... D'accordo. Comunque, io voglio entrare in merito all'Eva Close, al discorso che hai fatto all'Eva Close. Lei sta difendendo una causa che è molto importante. Sì. Importante per te ovviamente, cioè per me si parla di cose fuori dal mondo, cioè l'indipendenza del nord Tirolo, del sud Tirolo, quello per che me penso che sia importante. Ma allora fatevi sto referendum, andatevi, ne sai che cazzo ce ne frega a noi, cioè votatevi sto referendum, andatevi, non ci rompete i coglioni, no? Cioè, sintesi brutale, cioè, ma è così, votatevi un referendum. Ma voi se ce l'avete perché lei ha preso questi soldi che li ha detto che li lei ha versato soldi che gli stessi consiglieri regionali si sono autoattribuiti. Sono soldi dell'Italia, del bilancio pubblico italiano, dunque non sono soldi del Trentino Alto Adige. Sono soldi secondo me abnormi, ma quello come tutti i vitalizi, non solo il suo, eccetera. Semplicemente si tratta di soldi assurdi per chi ha fatto, anche per chi ha fatto carriera politica. E poi è assurdo che lei tranquillamente intaschi questi soldi dicendo nello stesso tempo che l'Italia è un paese occupante. Anche tu pensi che l'Italia sia un paese occupante, Ivano? Certo. Vabbè, ma allora vatte. Se pensi che sia un paese occupante, a casa mia i paesi occupanti si combattono con le armi. Se tu pensi che l'Italia sta violando i diritti umani, allora prendi le armi e spara al primo carabiniere che passa. Fermo lì. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Allora Cruciani, io ho lo scaldabagno rotto, quindi che mi si spegne un giorno sì, un giorno no, quindi mi faccio anche io un paio di docce a settimana al massimo, quando funziona, e quindi Parenzo non rompesse tanto la minchia, mi viene a riparare lo scaldabagno, oppure che accetti che c'è gente che puzza in giro come te, insomma. Non si capisce perché dovresti riparare o dare i soldi a questo tizio per lo scaldabagno, Parenzo. No, appunto, però ti confesso questo: oggi per la prima volta non mi sono fatto la doccia neanche. E mi sento proprio male, anche con me stesso, con le persone. Io mi sento male quando me la faccio. L'ho fatta ieri, no? Ovviamente, dopo la trasmissione. Stamattina. Tu dopo la trasmissione, per esempio, sei tornato a casa e ti sei fatto la doccia? Sì, certamente. Mamma mia, che orrore! Cioè, alle 11 di sera sei tornato la domenica, la faccio due volte, cioè la mattina, ovviamente. Mamma mia, ragazzi, tutte le mattine doccia, e la sera perché avevo sudato la trasmissione, quindi sono andato a letto pulito. Che cosa brutta, che cosa brutta, mamma mia. Ecco, stamattina che ero molto molto di fretta perché avevo una serie di commissioni da fare, escursioni e quant'altro, e allora mi sono vestito molto velocemente e non ho fatto la doccia. Ecco, mi sento Te la farai stasera quando torni a casa. Beh, questo assolutamente. Vabbè, ma che è una doccia al giorno? Ma guarda che ti fa male la pelle. La mattina, sempre la mattina quando si. Federico da Roma, vai Federico. Federico? Sì, ecco sì. Dimmi. Sì, per il film. Allora, quale film? Scusa, quale film? Mica è un casting questo qui. Che hai chiamato per un film? Che è la 100% Alex Magni? Che è? Per il film. Il capolavoro che mi è andato in onda. Non sento niente, Federico, non sento nulla. Dai. Questa è la radio, su. Dai, Federico. Niente, Salvatore, Roma, dai. Dimmi. Ciao, pronto? Dimmi. Ci sei? Sì. Sono in linea? Sì. Niente, volevo parlare un attimo, dire due cose sulla Chiesa. Sulla Chiesa che nel 2016 ancora c'è... Non sento niente. Sergio dalla provincia di Latina, dai. Sì, buonasera Sergio. Oh, ecco, finalmente, una voce chiara, limpida. Vai Sergio, dimmi. Buonasera. Volevo intervenire circa le case che stavo sentendo, appunto. Vai, dimmi. Ecco, secondo me, laddove si dovesse verificare, e speriamo di no... potremmo danneggiare drasticamente quello che è il mercato immobiliare della compravendita, appunto. Perché se io ho una casa che magari ce l'ho in vendita da molti anni e non riesco a venderla, laddove la dovessero affittare a degli ex comunitari, sì, ma non si preoccupi, Sergio, lei ha delle case sfitte? No, io non sono proprio proprietario, no, era un pensiero mio, insomma, che sì, ma no, non ti preoccupare, adesso tutti quanti a ragionare rovino nel mercato immobiliare, i prezzi quali saranno, le case sfitte, non succederà, è un'idea strampalata, se dovesse essere confermata, di un prefetto che non so perché ha detto una frase del genere, potremmo requisire le case sfitte per darle ai migranti, non accadrà, per fortuna, perché in Italia la proprietà privata è, se dovesse confermare questa frase, la signora prefetto dovrebbe dimettersi domani mattina, dovrebbe essere presa a calci nel sedere, perché è evidente che una persona che vuole requisire le case sfitte per darle ai migranti è fuori di cotenna. Cioè, se dovesse essere confermata una cosa del genere, secondo me Alfano dovrebbe andare lì e dire: senti, amica mia, dimettiti, perché in Italia, fino a prova contraria, non siamo nella Russia comunista, no, non siamo a Cuba, chiaro, signor prefetto? Io non so se lei abbia davvero pronunciato queste frasi, ma non siamo a Cuba, non siamo nella Russia comunista, non siamo nella Corea del Nord, non si requisiscono le case private. Se io, privato cittadino, voglio tenere sfitta una casa per 50 anni, pago le tasse su quella casa, ovviamente, ma faccio il cazzo che mi pare. Si possono alzare le tasse su quelle sfitte. Perché si crea un meccanismo virtuoso per cui si abbassano anche gli affitti. Mi fai sentire Toscani? Mi fai sentire Toscani? Volevo chiamare Toscani perché aveva intenzione di fare una sorta di grande manifesto per l'Italia laica. Forse si sbattezza pure lui. Aspetta, fammi chiamare, dai, chiamate Toscani. Oliviero? Sì. Ma io non sapevo nemmeno che tu fossi battezzato. No, cazzo, infatti io non ho battezzato un figlio, niente, ho battezzato mai nessuno. E allora? Sei figli, non ho battezzato neanche uno. Cioè, di questi sei figli nessuno è battezzato? Nessuno, poi qualcuno è andato a battezzarsi da grande. Ah, addirittura. Vabbè, quello, ognuno fa quello che vuole da grande. Appunto, ma che cazzo, sono anzi felice, uno dice voglio... Però io ho un testo che te lo voglio leggere. Sì, vai. Vai. La fede è un vero divino delirio di celeste grandezza. È difficile distinguere un vero credente da un folle. L'unica differenza forse è che credere è legalmente accettato e ammesso. Se le aberrazioni di un credente non fossero coperte e legittimate da un Dio, sarebbero semplicemente espressioni da manicomio. Dio, quando si è soli e non si hanno altri veri, reali e mortali interlocutori, è il supremo pretesto di dialogo. Permette possibilità infinite di fantasia e di grandezza. Se lo nominate e fate le cose a suo nome, vi sarà tutto permesso. Solamente così la demenza umana potrà essere mascherata. La superbia non fa accettare al credente, come succede a un malato di mente del resto, la propria nullità. Anzi, gli fa pensare persino alla possibile capitolazione di un Dio davanti alle sue preghiere. Tu pensi un po' che presuntuosi. Il credente pensa di vincere il proprio gigantesco ego in nome della fede, desiderando di continuare con la sua presunzione anche nell'aldilà, pensando che solo l'eternità può offrire sufficiente spazio al suo immenso orgoglio. Questa vita terrena non gli basta, crede che la sua durata non sia sufficiente, vuole continuare a vivere anche nell'eternità. Questa follia, volontà e fede mi fanno molta paura. La fede non è altro che un delirio di megalomania e di grandezza che fa persino vincere la paura del ridicolo. Non voglio essere neppure sfiorato dalla voglia di preghiere. La pazzia di qualsiasi tentazione d'adorazione mi genera nausea. Voglio che ci sia tanto spazio fra me e il cielo divino e eterno. Voglio godere della mia mortalità. Voglio essere un uomo normale. Non cerco alcun consenso per quello che scrivo, che vi dico. Non mi interessa se il mio pensiero provocherà scandalo e disgusto a chi ha affidato la propria coscienza alla fede di una religione. Credo sia legittimo esporre la propria opinione sul comportamento di chi agisce credendo in un Dio, con la sua Chiesa, il suo Papa, i suoi Vescovi, i Cardinali e tutto il fanatismo religioso che gli appartiene, che continuamente e ossessivamente predica, interferisce sulle azioni di chi non si conforma alla sua morale, come l'aborto, l'eutanasia, la contraccezione, il divorzio, il matrimonio civile, le donne, l'omosessualità, la pillola, offendendo continuamente la fede della morale laica alla quale io appartengo. presto Dio sia lodato, finirà il Giubileo. Il Papa finalmente chiuderà la Porta Santa e così sia. Amen. Ma chi è? Ma di chi è? Tuo? Mio, sì. Vai, bello. È stupendo. È stupendo, ragazzi. È meraviglioso. Oliviero, però io, ma tu vuoi essere sbattezzato allora? Sì, sì, sì, sì. Dov'è che sei stato battezzato? Santa Maria Zaccaria, non so. Vabbè, alla Mangiagalli c'è una chiesa. Il tuo certificato di battesimo dov'è? Non lo sai, naturalmente. Ce l'ho, sono nato il 28 febbraio 42 alla 1:15. Va bene, allora. Battezzatemi. Va bene, ciao. Il manifesto laico contro la Chiesa e contro la religione di Toscani, eh? Ammazza. Allora ragazzi, abbiamo la pubblicità, dopo torniamo. Bene. Perché dobbiamo risolvere il giallo nel mondo del porno italiano, eh? Ci sono novità. La tua amica Farnese, quella che c'ha la famigliola tutta impegnata nel porno, contro Alex Magni, quella là che c'ha il marito. Invitato ancora quella adorabile famigliola? Beh, quella è meravigliosa, sì, la Farnese, eh? Cioè, la vorrei come io pensavo i Farnese, sai, Palazzo, sì, effettivamente, Farnese, sempre, non appartiene alla famiglia Farnese. Sono, questa sera frequento i Farnese, poi li intervisti e scopri che è una famiglia disastrata, in cui c'è una signora che rivendica di fare sostanzialmente l'attrice porno, una madre di famiglia, e dice: scusi, il marito? Ah, no, lo so, c'è anche lui nel set. Dico: e la figliola? No, è contenta. E il nonno? Guarda. Ma è una famiglia quella. Ambiente dei maiali. Scusami, ma va tu. La Zanzara. Quattro e mezza del mattino, turno di notte, e sono davanti ad un computer. Ascolto il podcast della Zanzara e penso alla figa pelosa della mia compagna. Denise, ti amo. Ecco, io penso semplicemente una cosa: non più ai Confindustriali che escono dalle loro fabbrichette o dai loro consigli di amministrazione, salgono sulle loro macchine con autista più delle volte e si sintonizzano sulla radio. Non penso più a questo. Ma il mio pensiero va a questa povera, come si chiama questa ragazza? Denise. Questa povera Denise, che viene citata, sì, vilipesa, direi anche vilipesa, cioè, ecco, vilipesa, pubblicamente da questo cretino di fidanzato. È tirata in ballo su una radio che fa praticamente 2 milioni di ascoltatori nell'ora di massimo ascolto quando tutti sono a casa. Immaginati Denise in macchina con il padre, no? Che stanno amabilmente conversando, ritornando dal tennis. E il padre dice alla Denise: tesoro, come sta il tuo fidanzato? Sentiamo un attimo intanto la radio, un po' di musica. No, ci metti la Radio 24. E riconosce la voce del manigoldo, capito? La voce del manigoldo, la voce. Ecco, io fossi in quel padre, prenderei a schiaffoni questo ragazzotto, capito? A schiaffoni. E intanto, caro Parenzo, E intanto, caro Parenzo, impazza il giallo nel porno italiano. Certo. Di chi è la colpa di questo litigio? Le botte che sono state date ad Alex Magni, grande produttore del cinema porno, 100%, grandissimo. Sembra produttore. Ponti, sembra il produttore, ma di che parli? Il produttore di Lochino Visconti, sembra, ma cosa dici? Che è stato pestato, e anche lui però ha pestato il marito di una sua attrice. È una storia che ha visto veramente fiumi d'inchiostro sui giornali in questi giorni, ce li ho qua tutti. Tutto è iniziato da questo intervento alla Zanzara del signor Alex Magni. Ricostruiamo la storia. Senti. Certo. E io ero lì tranquillo, introduzione, a farmi i cazzi miei, a dire sto imbecille, mi comincia a dire. Ma chi è questo qua? Chi è questo? È il marito di questa deficiente, figlio. Ma è una storia di cornuto. Il marito di una che fa le produzioni con te? Sì, che fa l'attrice. Ha fatto tutti i film, sì, che poi questa vuole anche. Può essere trombato in privato, vabbè, ma quello va bene. Non posso andare fino a Ferrara a trombare qui. Ma no, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio. L'ho volato dalle scale, c'ha cioè, trauma cranio, due costole rotte, la spalla, un fenore. Cioè, ma qual è il punto? Che lei si è innamorata di te, questa attrice? Questa, qual è? Bravo, questa voleva trombarmi in privato, capito? Dice, io non gli ho dato il pisello. Vabbè, d'accordo, questo l'abbiamo capito. questo, caro Parenzo, il primo atto di questa commedia. Certo, il primo atto di questa commedia. La saga di Guerre Stellari, questa cosa. Alex Magni, Roberta Farnese e il marito. Naturalmente non poteva mancare la zanzara dell'intervento della signora Farnese, sì, la settimana scorsa, come sai, no? Come dimenticarlo? Un intervento della signora Farnese che io definirei meraviglioso, sì, che è iniziato in questo modo. Di 76. Mestiere, che fai? Cioè, io di mestiere faccio la casalingua. No, casalinga, dai. La casalingua. La signora, hai capito? No, la casalingua. Sì. La meraviglioso. Era una casalingua, poi dopo, conoscendo Alex così, adesso sono porno attrice e sì, anche produttrice comunque, perché io produco anche film. Produci pure, benissimo. Chissà come sono contenti, sì, in famiglia, sì. No, in famiglia, il marito, no, lo sa. Il marito è... No, dico in generale in famiglia. Ah, il marito è anche protagonista, anche il marito? No, il marito gira sempre con me. Siamo proprio... Sì, però sì, non gira, sì, materialmente, sì, non è protagonista nei film. Sì, sì, anche. Pure, sì, fa l'attore, sì, pure lui. Beh, è una famiglia, sì, sfasciata, ragazzi, no, miei. Ma non è dite vero, quello che volete, però è una porcheria. Siamo felicissimi, invece. Ma certo, dai, ma ragazzi, senza fatemelo dire, è una porcheria assoluta, ragazzi miei. Però va bene. Avete figli, signora Farnese? Sì, ne abbiamo una grande, ma lei fa la sua vita, lei è contenta. Cioè, lei è a conoscenza della vostra, sì, attività? Sì, ma come sì? Ma andiamo all'oggetto della discussione, a parte questo ritratto familiare, no? Questo ritratto familiare. Andiamo avanti. L'oggetto della discussione qual è? Chi è? Una ricostruzione che neanche Vespa nel caso di Cogne ha fatto, guarda. Andiamo avanti, va. Chi è, cioè, chi è il colpevole di questa rissa, chi di queste è? Botte? Chi è? Secondo la signora Farnese, naturalmente... Era invece Magni, Alex Magni a cercare lei. Beh, importante, Non ero io a cercare Alex, ma era lui che continuava a cercare me. Ah, importante, sempre... Parenzo, fermiamo tutto. Sì, è andato. Sì, cambia, ragazzi, anche cambia il corso della storia questo, un pochino, porca un pochino, miseria. Voleva fare sesso privato lui, sesso in privato lui. Sì, ma viene fuori che dai, trova una scusa con dici che andiamo a fare lo spot e poi invece andiamo fuori a cena, e poi trombiamo. E poi trombiamo, poi dopo il io. Vabbè ragazzi, questo è il grande giallo, il grande giallo, e però si aggiunge, Parenzo, la cosa scritta oggi dal signor Magni, Ah, perché scrive anche il signor Magni. Signor Magni scrive anche le epistole del signor Magni. Falsa e bugiarda, ho sentito l'intervista alla Zanzara della Farnese. Quindi sarei io che la importuno per trombarla in privato all'insaputa del marito, ma per favore, allora siccome questa storia mi sta facendo girare i coglioni e da bugiardo non voglio passare, farò sentire in diretta la Zanzara le telefonate che quella zoccola mi ha fatto in privato e che ho registrato. Mostrerò i messaggi che questa stronza mi manda tutti i giorni. Poi vediamo. E il giallo continua. Attendiamo con piacere i messaggi privati del signor Alex. Ci mancano solo quelli, ci mancano, guarda. Grandi inchieste, stile report. A proposito di inchieste, qui c'è un'inchiesta importante. Poi abbiamo Salvatore da Catania, Maximilian da Bari, sì, Sergio dalla provincia di Latina, Luciano dall'Aquila. Sacco di gente che deve intervenire alle 20:41. C'è ancora tantissimo tempo, Parenzo, perché stasera andiamo in diretta fino alle 22, credo. No, ma che fine vedete? Sì, credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Io ce l'ho sto buco allora, qui a casa. Abbiamo, a proposito di sesso, collegata una mia amica che si occupa solo di sesso per il Cosmopolitan. Solo di sesso, capito? Una persona che dalla mattina alla sera si occupa di sesso. Abbiamo già ospitato una volta la signora Barnaby. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Maria Elena, come stai? Bene, tutto bene. Non è vero che mi occupo di sesso dalla mattina alla sera, ma va bene così. Ma come no? Spesso ti occupi di sesso per Cosmopolitan, cose molto importanti. Non lo stavo dicendo per prenderti in giro. Devi sapere che la signora Barnaby, caro Parenzo, è la tipica MILF, cioè con una occhiale... Mother, l'acronimo, sì, ricordiamo. I like to fuck. No, MILF, sì, no, madre, no, com'è l'acronimo? Che non mi ricordo. Mother, più. I like to fuck. Ah, vedi, è Mother, sì. I like to fuck, perché è madre. Ovviamente c'ha anche questi occhialetti e anche dei capelli neri che potrebbero anche, come dire, rappresentare nel mondo delle MILF, ma a parte questo. Vabbè, adesso vado a vederla su Google, la Google un attimo, vediamo. Esatto, allora è uscita Maria una ricerca fatta da Cosmopolitan insieme a Pornhub. Tu sei mai andato su Pornhub, Parenzo? Pornhub? Pornhub, no. No, no. No, no, no. Allora, i ragazzi e le ragazze italiane tra i 18 e i 34 anni, tra cui chiedo sono scusa anche... però, No, no, devi chiedere scusa, sì, molti ascoltatori della Zanzara, e come si rapportano al mondo del porno, cioè come si rapportano al mondo del porno su internet, no? Che cosa vanno a cliccare soprattutto? Ecco, partiamo dalle ragazze. Questo è interessante. Cari Marena, che cosa cliccano? Abbiamo avuto delle grandi sorprese. E quali sarebbero le sorprese? Intanto Intanto volevo ricordare che Pornhub è il più grande sito del mondo di porno online, come è fratello di YouPorn e di RedTube. Giusto per che differenza c'è, dottoressa, tra i due media, diciamo? Ma diciamo che alcuni, per esempio RedTube va di più nel Sud America, è solo una questione di utenza, diciamo che i contenuti sono gli stessi, gli questi stessi. Sono siti diciamo così generalisti, poi ci sono quelli più precisi, più specifici, insomma, cioè, c'è per di alcune tutto. Perversioni su porn... particolari. Esatto, su Pornhub c'è un po' di tutto, Parenzo, bisogna essere molto scientifici e tecnici in questa cosa, signora Barnaby, mia amica, è molto tecnica su queste cose, considera il sesso e queste cose qui come parlare di politica, come parlare di riforma della Costituzione, io non ho ma è giusto che sia così. Allora, quali sono le novità che sono uscite fuori da questa grande ricerca? Diciamo? Allora, a parte diciamo così, la cosa scontata che alle ragazze dai 18 ai 34 anni, noi le abbiamo chiamate insomma le millennials, piace il sesso lesbo e il sesso fatto quello female friendly, cioè fatto per le donne. A parte questa cosa scontata qua che sappiamo... Beh, questo tutti, sì, questo no? Sì, nelle fantasie sì. Beh, si sa che la prima una delle prime fantasie sessuali delle donne è il sesso lesbico. Sì. Quello che ci ha colpito è che le gangbang sono il secondo record più cercato rispetto ai maschi. Questa è stata una... Cioè, non ho capito, le donne cliccano, le ragazze tra i 18 e i 35 anni cliccano soprattutto gangbang? Cliccano su gangbang il 480% in più rispetto agli uomini, quindi uno si aspetta in realtà che gli uomini vanno a cliccare rispetto alle donne queste cose un po' dure, no? No, e invece sono le donne. Cioè le ragazze italiane hanno come fantasia sessuale la gang bang. Davvero sorprendente, clamoroso al Cibali. Sì, è sorprendente, infatti siamo... No, e invece siamo lo dico dal punto di vista della radio economica, insomma, della radio... Sì, assolutamente, click uguale soldi, certo, e sono dati economici fondamentali. Un altro dato economico fondamentale è quello dei ragazzi, invece, che vanno a cliccare soprattutto che cosa? Perché ho letto il feticismo dei piedi, quello lo sapevamo. Sì. Sì, beh, insomma, lo sapevamo, non era poi così scontato nei ragazzi giovani, no? Allora, tu dici, ragazzi, la grande novità è ai ragazzi giovani piace il feticismo dei piedi. Allora, se mettiamo insieme alcuni dati, cioè il fatto che loro amano le donne, pizza, milf e mature, sono i primi tre dati, le prime tre cose che cercano di più, insieme al feticismo dei piedi, che comunque è il terzo record, adesso non mi ricordo più, insomma, è la terza parola che va più cercata, il foot fetish viene cercato rispetto ai dati europei 1307 volte in più. Hai capito. Mettiamo insieme queste cose, abbiamo da una parte ragazze che amano delle scene molto forti, dove il maschio è un maschio vero, e dall'altra invece ragazzi che un po' vogliono essere sottomessi, c'è una tristezza. Cioè, tu dici le due cose insieme danno un quadro drammatico. Cioè, beh, sì, ha ragione la dottoressa. Assolutamente, la professoressa, direi, a questo punto. La professoressa che con grande dovizia di particolari. Sì, perché tecnicamente... ci sono richieste diverse. Quindi... Le ragazze amano, diciamo, lesbo, si può dire così, e la sottomissione, se così possiamo definire. Mentre gli uomini, il feticismo dei piedi, queste due cose non si incontrano. Quindi bisogna correre ai pari. Beh, quindi in tutto questo lei ci sta dicendo si apre un mercato per noi normali. Ecco, questo un po' questo devo arrivare a questa banale conclusione. No, appunto, di normale va bene adesso, diciamo che si aprono delle parentesi per delle discussioni, poi bisogna vedere, magari una ragazza ci sta guardando delle scene di gangbang, ma poi insomma parlando con sessuologi e psicologi abbiamo capito che non è che sono proprio tutte lì pronte a fare orgie, no, magari lo dicono, cliccano e poi non hanno il coraggio, diciamo, è nelle fantasie. Va bene, professoressa. Professoressa, grazie. Grazie professoressa Barnaby, grazie, buonasera. Grazie molte. Ciao. Sai che però la professoressa Barnaby un po' come gli esperti di Barisoni alla fine. Sì, è bravo, cioè bravo, hanno un po' lo stesso valore. Assolutamente, no, lui chiama professionisti tecnici, cioè noi chiamiamo gli economisti del sesso. Beh, persone... ma è così, bisogna giustificarla così. Non devi giustificare niente, no, è così. Giustificare, spiegarla così, è così. Dai, su. Maximilian da Bari, dai, Maximilian. Ciao carissimi, allora velocemente, scopro tempo fa che i genitori di un mio alunno sono fruttariani. Sono fruttariani, i genitori di un tuo alunno sono fruttariani. Cioè, mangiano solo frutta. Fruttariani, mangiano solo frutta. Mangiano solo le banane. Ma ho detto questo, una cosa inquietante qual è? I figli ovviamente sono costretti, sono piccoli, a essere vegetariani. Sì. Ma perché vi chiamo? Perché qualche settimana fa alcuni miei alunni mi dicono: professore, lui ogni santo giorno ci elemosina la merenda. Ora, potete immaginare questo povero bambino che non mangia un cazzo, già un colore che va dal giallo al violaceo, non so dove prende le energie, in più passa pure per un morto di fame, insomma... No, vabbè, amico mio, il problema è che i genitori possono, come dire, dare il cibo che vogliono ai figli. E certo, i fruttariani, meglio fruttariani dei respirariani, per esempio, quelli che sono pochissimi, naturalmente, quelli che pensano di vivere solamente con... E ti dico la verità, meglio i fruttariani dei vegani a questo punto, anche se in realtà è una specie di evoluzione del veganesimo. Sì, è un sottoinsieme che addirittura mangiano solamente la frutta, ma io credo che solo con la frutta si possa campare, cioè, perché poi la frutta è varia, ci sono diverse cose. Salvatore da Catania, dai Salvatore. Salvatore? Non vi saluto, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Sì, non vi saluto perché la maleducazione, questa trasmissione ormai è una cosa assodata. La maleducazione è una cosa assodata. Tu hai chiamato per dire che è una maleducazione. Non capisco perché tu ti dà fastidio che la gente ti chiami e non saluti. No, ma io... Grazie, perché ti salutano. Ma sì, perché voglio andare subito al sodo, non mi va queste premesse. Ma ho capito, ma il buongiorno, il buonasera, mi danno fastidio. Un mezzo secondo. Ma infatti ciao, non ho problemi col ciao. Buonasera, come va? Grazie della trasmissione, grazie dell'intervento. Non mi dà fastidio. E tu subito. Mi dà fastidio, ma allora, saranno cazzi miei o no? Sicuramente non trattate bene tutti quelli che chiamiamo. Vabbè, allora non ci tutti quelli bene. Che chiamiamo... Vabbè, ormai è un modus tuo, è un modus. Vabbè, allora? Lo accettiamo per quello che è. Poi sti cazzo di vegani veramente, ma ancora, cioè è assurdo, se siamo all'apice della piramide, come si fa a continuare, cioè io farei una legge. Sì, qual è la legge? Farei una legge, vietato essere vegani. No, le leggi no, non vanno bene, vietare non va mai bene, amico mio. No, ognuno nella vita fa quello che vuole, dobbiamo chiudere, a domani 18:30, ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.